X24 di Giovanni Minoli. Si avvicina la data del 23 giugno in cui i cittadini della Gran Bretagna decideranno se restare o meno dentro l'Unione Europea. Lo shock che subirebbe la nostra economia ci farebbe precipitare in una recessione di un anno, afferma il premier Cameron, e per la prima volta nella storia sarebbe una recessione autoinflitta. In due anni perderemo almeno 500.000 di posti di lavoro, sostiene Osborne, ed è una stima per difetto, poiché in realtà sono a rischio fino a 820.000 impieghi in Gran Bretagna. Perché inviare 10 miliardi di sterline all'anno a Bruxelles? Boris Johnson esprime disprezzo per l'accordo negoziato da Cameron, diventando il portabandiera dei sostenitori dell'uscita dall'Unione Europea. Tra meno di un mese, il 23 giugno, il Regno Unito deciderà con un referendum se restare o uscire dall'Europa. Caterina Soffici è una scrittrice e giornalista italiana che vive a Londra. Ecco, dottoressa Soffici, lei fa parte di quei 250.000 italiani residenti a Londra. Teme per il Brexit? Eh? Io temo, sì, io temo perché in questo ultimo anno sono successe molte cose che secondo me possono mettere molto a rischio questo risultato. Se lei mi avesse fatto questa domanda l'anno scorso l'avrei detto no, è un referendum che Cameron ha indetto in un momento di difficoltà per diciamo così dare un calmare un po' gli euroscettici dentro al partito conservatore, peraltro dopo aver vinto le elezioni invece con delle politiche molto tra l'altro, di grande austerità anche tra l'altro cioè ha sbagliato il tempo secondo lei? No, sono due cose un po' diverse, perché l'austerità non è legata soltanto, non è legata al Brexit. No, ma dicevo ha sbagliato il tempo per indire il referendum. Assolutamente, ma la politica non è una scienza esatta. No, assolutamente, quindi, da nessuna anche parte. Anche in Inghilterra diciamo che brancolano un po' nella nebbia. Sempre più italiani. Sono molto simili, si stanno un po' italianizzando. Sì, senta, sì, quindi lei è per la permanenza però dell'Inghilterra in Europa, nettamente? Assolutamente. Credo come tutti gli europei, gli espatriati e noi che non siamo inglesi che viviamo a Londra. Assolutamente. Ecco, sì. I suoi figli studiano a Londra? I miei figli vivono a Londra e studiano a Londra. Ecco, sì. Che cosa pensano i compagni a scuola? Ne discutono o è un problema che è solo dei grandi? No, è un problema anche loro. Io le dico, la scuola dei miei figli è una scuola super multiculturale, 27 nazionalità diverse, per cui si può immaginare. Quindi per loro, insomma, la discussione sarà viva. E in verità la vivono anche un po' come una cosa di un po' di pericolo, no? I miei figli mi hanno chiesto... La paura di essere buttati fuori dall'Inghilterra. Bravo, è proprio questa qui. I miei figli mi hanno detto, mamma, noi dobbiamo prendere adesso il passaporto inglese. Io ho detto, ma per adesso... Adesso ci faranno entrare col passaporto italiano. Quindi comunque un'area di allerta. C'è diciamo. Un'area, sì, è tutto bloccato, tutta Londra è come se fosse sospesa in attesa. In caso di successo dell'uscita della Gran Bretagna dall'Europa, per voi concretamente cambierebbe qualcosa per gli italiani che sono lì? Su questo ancora non ci sono le idee molto chiare da parte di nessuno. Io ho parlato sia col console, che è una persona molto attenta a queste cose, e anche con persone, funzionari dell'ambasciata, e anche loro avete fatto delle proiezioni, capire cosa può succedere, e loro non ce l'hanno, perché non è chiaro cosa non è chiaro, è un umore che cambia ad horas. No, non si sa che cosa succede, esatto. Per esempio rispetto agli altri cittadini comunitari, non si sa se poi anche noi dovremmo avere un visto per entrare o no, certo. non è stato comunicato niente. A nessuno. Non Senta, ma tra gli inglesi è possibile individuare delle categorie pro e delle altre contro? Sì, per l'uscita sono, l'identikit è proprio abbastanza chiaro, è un maschio bianco, tendenzialmente sotto acculturato, cioè non molto scolarizzato, con dei lavori di basso livello, con non molti skills, che non mi viene queste parole. Certo, molti skills, va bene. Perché vivono l'Europa come qualcosa che gli fa perdere l'Europa il lavoro. Vivono l'Europa come una minaccia, vivono Bruxelles come una minaccia, anche se ben non sanno dove sia Bruxelles, però vedono come l'Europa come una minaccia che ti impone la lunghezza delle banane, no? Queste stupidaggini sì. che si sentono dire anche, si sentono dire anche in Inghilterra, queste cose qui. Invece l'elettore che è assolutamente per rimanere, il Remain, è principalmente giovane, laureato comunque con studi superiori. Quindi una netta divisione proprio. Sì, e donne, e questo è molto, molto curioso, le donne. Sono nei sondaggi, nelle cose che vengono fatte, sono queste qui. Ecco. E poi ovviamente ci sono anche delle cose curiose, per esempio a Londra, che comunque è una città super multiculturale, quindi il problema è che gli espatriati di Londra e gli stranieri di Londra non possono votare, perché possono votare soltanto gli inglesi e i naturalizzati inglesi. E quindi voi potete solo stare a guardare. Noi possiamo stare solo a guardare, però... tutti gli stranieri del Commonwealth votano, cioè per dire un quindi malese, voi no, ma un malese sì, quindi è molto difficile valutare, insomma è molto difficile valutare, però a Londra, che è una città che adesso ha eletto il nuovo sindaco, una città quindi che è stata dove i laburisti hanno vinto e ha strappato Londra a un sindaco conservatore che è stato dichiaratamente... Sì, in realtà questo Sadiq Khan è di origine pakistana, è figlio di emigrati... Però lui è assolutamente per rimanere, lui è assolutamente per rimanere, quindi mentre il conservatore che era Boris Johnson è diventato un po' il capo degli euroscettici, che vuole uscire, per cui è una cosa molto fluida, molto difficile da capire forse vista da qui, perché noi pensiamo che chi vuole andare via sono quegli arrabbiati leghisti, non c'entra assolutamente niente, proprio le dinamiche sono diverse, e addirittura a Londra se uno guarda i flussi elettorali dell'ultima elezione, proprio quella appena successa, è un po' quello che racconta Ken Loach nel film del disoccupato a cui vengono quello citati, che ha vinto a Cannes, quello che ha vinto a Cannes, no? Allora, quella è la tipica cosa, lui è il tipico impaurito, lui voterà il personaggio di Ken Loach vota Brexit. Ecco, le faccio un'ultima domanda. Schierandosi a favore del Brexit, il vecchio sindaco Johnson ha sfidato Cameron, cioè l'inizio della sua scalata Downing Street, forse? È quello è sicuramente. Lui si è contrapposto a Cameron. Ma con quell'obiettivo lì? Con quell'obiettivo, quell'obiettivo di fare le scarpe. Anche qui, ecco, in questo ci stiamo molto italianizzando. Anche in Inghilterra usano l'Europa, le politiche per politica interna. Questa è proprio una vendetta e una diatriba interna al Partito Conservatore. Senta, un'ultimissima cosa, nel suo libro Italia Yes, Italia No, che cosa capisci del nostro paese quando vai a vivere a Londra? Lei scrive: a Londra si vive peggio ma si sta meglio. In due parole che vuol dire? Che a Londra la qualità della vita è estremamente inferiore a quella che c'è in Italia e un italiano che anche guadagna bene a Londra si sente povero. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Da queste osservazioni interessanti di costume passiamo a quelle del business. A Paolo Scaroni, ex amministratore delegato di Eni, deputy chairman di Rothschild, buongiorno dottor Scaroni. Ecco, tra meno di un mese, appunto, il Regno Unito deve decidere che fare. Ma se Churchill ci fosse oggi, secondo lei, cosa voterebbe? Allora, guardi, non dobbiamo mica far congetture su quello che avrebbe fatto Churchill. Churchill l'ha detto in un famoso discorso che tenne a Zurigo nel 1946, disse: io sono molto favorevole agli Stati Uniti d'Europa, che la Gran Bretagna sponsorizzerà, ma non ne farà parte, perché il gioco della Gran Bretagna è un gioco del mondo e i confini dell'Europa ne sarebbero stretti. Ecco, quindi sicuramente Churchill voterebbe per il Brexit. Ah, sicuramente. Senta, l'ex sindaco di Londra, abbiamo sentito, a Boris Johnson, che è un conservatore anche lui, ma è avversario di Cameron, invece fa il tifo per l'uscita. Lo fa solo per ragioni di politica, di applicazione della politica internazionale alle questioni interne? No, non lo penso proprio. Boris Johnson lo conosco bene, ha il perfetto pedigree dell'elite inglese, è un intellettuale che ha studiato a Eton, Oxford, un cultore dell'impero romano e un cultore di Churchill, su cui ha scritto parecchi libri. Quindi lui la pensa esattamente come Churchill, pensa che i confini dell'Inghilterra siano il pianeta e non siano l'Europa, e quindi vuole conservare l'indipendenza dell'Inghilterra per questa ragione. E quindi l'obiettivo non è un obiettivo di politica interna, ma è un obiettivo di visione generale del ruolo dell'Inghilterra nel mondo. Sì, beh, poi sa, alla fine magari ci sarà anche un gioco di politica interna, però sicuramente lui la pensa così per davvero. Ecco. Senta, ma se dovesse realizzarsi questo Brexit, facciamo questa ipotesi, lei che è un grande conoscitore, sarebbe peggio per la Gran Bretagna o per l'Europa? Ma io credo che sarebbe peggio per la Gran Bretagna, perché soprattutto per Londra. Londra è oggi il centro finanziario dell'Europa, tant'è vero che io passo il mio tempo proprio lì, e probabilmente una Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea darebbe fiato a Francoforte o a Parigi per rimpiazzare Londra come centro della finanza. Ci sarebbe un rischio, ecco, quindi la conseguenza principale per la Gran Bretagna sarebbero quelle secondo lei? Esatto, io penso così. Ma gli inglesi però hanno tutto, hanno una loro banca centrale, hanno la sterlina, hanno Westminster, hanno la regina, che cosa vorrebbero ancora che non hanno? Vabbè, non vogliono essere condizionati in nessun modo da Bruxelles su niente, e poi almeno sul terreno del voto il vero tema che porta la gente a votare per l'exit è la paura dell'immigrazione. Soltanto l'idea di avere qualcuno a Bruxelles che impone quote di immigrati ai differenti paesi, compreso la Gran Bretagna, spaventa molto gli inglesi, e i quali su questo terreno non vogliono nessun condizionamento da parte di nessuno. Ecco, quindi è questo il senso della campagna del Comitato per l'Uscita, che dice è l'ultima occasione che abbiamo per riprendere il controllo. Ma il controllo di cosa? Di questo? Dell'immigrazione? Controllo di sostanzialmente di tutto, vede, la realtà hanno è tutto. Che gli inglesi, anche i favorevoli al Remain, quindi a rimanere nell'Unione Europea, sì, hanno una visione dell'Europa al massimo di un mercato comune. L'idea di una progressiva integrazione politica dell'Europa non li sfiora nemmeno, ma nemmeno i favorevoli, quindi si immagini chi è contrario. Certo. Ma per l'Europa invece le conseguenze del Brexit quali potrebbero essere? Ma secondo me ci sono due terreni che vale la pena di esplorare. Beh, il primo è che l'uscita di un grande paese come la Gran Bretagna potrebbe essere un esempio per altri paesi per uscire all'Europa. Penso per esempio alla Polonia piuttosto che alla Slovacchia, l'Ungheria, i paesi baltici, che diciamo la loro entrata nell'Unione Europea, seppur recente, non la vivono in modo molto molto facile, molto semplice, certo. No? E questo mi sembra il primo tema. Il secondo tema da esplorare è che sicuramente la Gran Bretagna all'interno dell'Unione Europea taglia le ali a tutti i sogni di un'Europa politicamente integrata. L'Europa con dentro la Gran Bretagna non avanzerà di un millimetro sul piano dell'integrazione politica, cioè per intenderci sul piano della creazione degli Stati Uniti d'Europa. Certo. E quindi chi veramente sognava un'Europa unita dovrebbe sognare il Brexit. E quindi, dottor Scaroni, l'Europa comunque oggi è ferma, lo vediamo, e ha bisogno in ogni caso di uno shock. Il Brexit in questo senso può essere uno shock salutare, secondo lei? Potrebbe essere uno shock salutare senz'altro sul terreno proprio dell'integrazione ulteriore politica dell'Europa, cioè. Se no rimarremo impantanati come siamo da tempo, venendo accusati appunto di decidere soltanto la forma delle banane o fatti del tutto burocratici, e senza quindi costruire nulla sul piano politico. E quindi alla fine quello che sembra un incubo, cioè quello del Brexit, potrebbe diventare un'opportunità per l'Europa? Potrebbe diventare un'opportunità, anche se, come le dicevo, potrebbe dare il via a un processo di disgregazione dell'Europa dei 28. Di riaggregazione di un'altra Europa. Esatto, potrebbe essere la creazione di un'altra Europa, magari intorno ai 6 paesi fondatori, esatto, compresa l'Italia. E quindi per l'Italia in particolare potrebbe essere un'opportunità per rinsaldare, per giocare un ruolo nuovo nella nuova Europa. Sì, in questo senso sì, sicuramente. Ma se fosse il Renzi, sotto sotto, questa è una domanda da $1 milione, sotto sotto, spererebbe in una vittoria del Brexit oppure un'eresia? Ma guardi, quello che pensa Renzi, no, su questo d'accordo, terreno non lo so. Certamente molti politici europei con cui ho parlato in questi mesi, naturalmente questo è il tema all'ordine del giorno, certo, tutto sommato un'uscita dalla Gran Bretagna non la vedono come solo negativa. Cioè non si può dire, ma lo pensano. Ecco, certamente non si può dire, ma un pochino lo pensano. Aggiunga poi che l'idea di avere un grande paese che si pone queste domande, resto, vado, ma immagini se lo facessero tutti, se tutti i 28 paesi dell'Europa ogni 2-3 anni si facessero le domande se restano o se escono. Quindi... questo sarebbe una mazzata su ogni processo di integrazione in corso a Bruxelles. E quindi può essere veramente uno shock favorevole a ripensare l'Europa, diciamo, sì, in qualche modo. Ecco, al posto di Draghi, lei come si sentirebbe all'avvicinarsi del referendum, Scaroni? Va bene, siccome Draghi non si occupa di Europa, ma si occupa dell'euro, ma l'euro un po' c'entra, non fa parte dell'euro, credo che il tema non lo riguardi di prima battuta, poi lo riguarda come riguarda tutti noi per ragioni politiche, ma lui è responsabile dell'euro e mi pare che su questo terreno abbia abbastanza da fare senza preoccuparsi del Brexit. Ecco, allora mettiamolo in un altro modo, dottor Scaroni. Draghi ha sempre detto che l'euro è un progetto irreversibile, anche in caso di Brexit. Direi ancora di più in caso di Brexit, perché l'euro diventerebbe il cemento per gran parte dell'Europa, per i grandi paesi dell'Europa che l'euro l'hanno adottato. Certo. Senta, un'ultima cosa, sempre stando agli inglesi, che lei appunto conosce benissimo e oggi l'ho già detto, è deputy chairman di Rothschild. La Londra degli affari comunque l'ha detto, ma vorrei capirlo bene, è nettamente schierata contro il Brexit. Sì, guardi, allora le dico un po' come la vedo io. Sicuramente le dico, qui mi lancio in una previsione, il Brexit perderà. E perderà perché, come diceva Napoleone, gli inglesi sono una nazione di bottegai e quando vanno a votare non votano col cuore, votano col portafoglio. Allora, per il portafoglio il Brexit sarebbe un disastro e quindi voteranno a favore di rimanere nell'Unione Europea. Ah, questa mi sembra una buona analisi. Grazie, dottor Scaroni. Grazie. 800 24 00 24, numero verde, 349-238-6666, l'SMS. Mario, beh, mi sembra un'analisi, quella di Scaroni, molto interessante, sì, con delle aperture di riflessione su questa cosa. Mi ha colpito molto questa cosa che tutto sommato i politici europei non lo possono dire, ma quasi quasi sperano che l'Inghilterra se ne vada. Ma perché la parola crisi vuol dire anche opportunità, no? Una finestra che si apre, una parola di derivazione greca. E quindi si conferma che anche un'uscita del Regno Unito potrebbe rappresentare una opportunità. La penso come Scaroni, cioè, credo che alla fine... Però i mercati cioè la City è perché resti. Sì, sì, alla fine penso appunto che prevarranno quelli che vogliono restare nell'Unione. I mercati vanno temuti, il vero timore che io ho. Quando uno li teme, poi che fa dopo? E perde soldi solitamente. No, ma temuti è come si insomma, voglio dire, come si fa? Come si fa? Si fa che quando uno li teme, poi che fa? Si deve premunire. E quindi non deve uscire? Certo, la via più facile è quella di non uscire, ma se esci devi trovare delle soluzioni tampone innanzitutto nell'emergenza, che stanno studiando. E poi tu prova a immaginare solo tutto il sistema finanziario che è costruito intorno alla City, le banche, gli hedge fund, gli investment bankers, e c'è tutto un mondo, tutta l'industria finanziaria è là. Cosa succede se il Regno Unito, diciamo, esce dall'Unione? Abbiamo un po' sentito questo. Quindi questo è, secondo me, il vero grande dilemma. Poi a livello regolatorio, quelle sono cose che si successive. Ecco, Pietrangelo, a te gli inglesi, se non ho capito bene, non sono tanto simpatici. Come? No? Mi piace tantissimo Shakespeare. Ah sì, e basta? No, è tanto. No, ma adesso, a parte gli scherzi, saresti contento dell'uscita dall'Unione dell'Inghilterra? Come la vedi tu? Intanto vorrei uscire io dall'Europa. Va bene. Vabbè, ma per adesso ti guadagni se, il pane qua. Se escono loro, sì. Se escono loro, sì. Contento per loro, contento. Voglio dire, amo tantissimo un'idea di Europa. Ah. Tant'è vero che proprio per questo mi fa schifo l'Europa attuale. Sì, quello a tanti. Quindi amo l'Europa decisamente. Ma se fosse vera. Mm. Per quel che riguarda gli inglesi, invece, vorrei ritornare a quello che diceva prima a te Caterina Soffici, e cioè l'analisi su un particolare tipo umano. Il bianco, se non ricordo male, è definito sottoculturato. Sì. Allora, l'Inghilterra sta pagando pegno di una vicenda che affonda le radici da lontano, ancora più lontane rispetto a quello che Scaroni aveva individuato in Winston Churchill. E cioè è un'idea del mondo che coincide con l'Inghilterra, certo, che va a sfasciarsi su quella che poi è stata la sua disfatta principale. Ha vinto la Seconda Guerra Mondiale per perdere tutto. Mm. E adesso paga il prezzo. Adesso tutti i nodi sono arrivati al pettine. Tant'è vero che l'umanità brulicante, che da sempre è arrivata al Tamigi e quindi per impossessarsi di Roma, adesso si sta ritraendo. E quella terra, che da sempre ha vissuto se stessa con un'identità profonda distinta dal resto del continente, non avrà la forza di poter ricominciare, di poter segnare il nuovo secolo all'insegna di ciò che è stato l'impero inglese. Beh, certo. Ed è la vera disfatta che accompagna questa vicenda. Ovviamente, come diceva Scaroni, è inimmaginabile che altri, figurarsi noi poveri italiani, si possa immaginare di fare un referendum per chiedere di uscirsene via. Ma è la disfatta dell'Europa. Giancarlo da Torino. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno signor Minoli. Buongiorno. Dica. No, volevo semplicemente dire che non la vedo così tragica l'uscita dalla Gran Bretagna. Ah, ma infatti qui mi sembra che le opinioni sono molto diverse. Non la vedo neanche noi. Per queste ragioni. Prima di tutto perché secondo me la Gran Bretagna vede l'Europa come solo una grande opportunità di mercato, esatto, non ha grandi ideologie politiche, primo. Secondo cosa, loro già godono di prerogative che gli altri 29 no, che gli altri 28 non godono, e poi comunque questi inglesi sono sempre fondamentalmente un pochettino, come si dice, prepotenti e presuntuosi. Un pochettino. Credono che l'Europa sia il Commonwealth, vabbè, non hanno ancora l'idea del Commonwealth. Non è così. Grazie. Carlo da Roma. Carlo, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Dica. No, niente, io... Ah, niente, allora non importa. Che praticamente c'ho un po' a che fare con Londra, no? Conosco un po' di gente e... Cosa fa lei? Cosa fa? Io sono un ingegnere, lavoro spesso, diciamo... Con gli inglesi, a Londra, sì. Quindi volevo dire che la mia esperienza invece è che chiunque incontro a Londra... non ha affatto voglia di rimanere in Inghilterra. Non so cosa diceva la signora prima, ma mi piacerebbe sapere anche che lavoro fa, no? La giornalista, fa la giornalista. Fa la giornalista. Ah, la giornalista, e probabilmente lavora anche a Bruxelles, perché No, lavora a Londra. Sì, ma con la comunità europea. Sì, no, ma mi dice allora il punto? No, il punto è soltanto praticamente che io questa volontà di uscire non la sente. La vedo ovunque. Insomma. Ah, la vede ovunque, quindi insomma l'Inghilterra secondo lei se ne andrà dall'Europa. Che ci fosse anche un Itexit, diciamo, no? Sì. E quindi diciamo, credo che ci sia questa... voglia un po' generalizzata. A me sarebbe piaciuto l'Europa, sì. Un'Europa praticamente sul modello degli Stati Uniti, con un unico presidente. Va bene, d'accordo. Insomma, gli Stati Uniti d'Europa. Grazie. Ecco, Mario, tu hai un passo da leggerci per chiudere. Sì, no, perché siccome Pietrangelo ha evocato l'umanità brulicante, sì. E allora ha ricordato la massa, e noi in fondo stiamo parlando di che cosa? Di popolo e di potere, e dunque di massa e potere. Mi sono ricordato che c'è un bellissimo libro di Elias Canetti che si intitola proprio così, Massa e Potere. Ci ha vinto sopra un Nobel. E allora un po' di musica e poi ve ne leggo un passo. Dai. La struttura primordiale del potere, il suo cuore e il suo nucleo, si è spinta all'assurdo e giace in frantumi. Il potere è più grande, ma anche più fuggevole che mai. Tutti sopravviveranno o nessuno. Elia Scanetti, Massa e potere. Il numero verde 349-238-6666, l'SMS, pubblicità. State ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. Mix 24. Michela Di Biase, 36 anni, è stata la più giovane capogruppo PD nell'era di Veltroni. Oggi candidata sempre per il PD alle comunali di Roma. Nata in Borgata, in una famiglia che la politica ce l'ha nel sangue e che lei ha vissuto come una passione bruciante. È così? Sì, è così. Perché è bruciante? Beh, bruciante perché quando nasci in quartieri periferici come quelli da cui vengo io c'è un forte senso di rivalsa e di vedere le cose migliori. Io ho iniziato a fare politica esattamente per questo. Oggi lei è una candidata però con l'handicap, perché ha avuto la sventura o fortuna di innamorarsi e sposarsi col ministro Franceschini. Da quel momento, da attivista impegnata sul territorio, è diventata la moglie di. È stato uno shock? Ma è stata un po', come dire, una sorpresa, la sorpresa di vedere che poi le cose in Italia sono sempre complicate. Comunque sono due cose diverse, sono la moglie di Dario e sono un'amministratrice, una militante del Partito Democratico. Io tengo molto a tenere le due cose separate. Ma c'è del maschilismo in questo approccio, secondo lei? Sì. Sì. Direi di sì. Moglie di è facile. Un'arma facile da utilizzare. Ecco, però, le è costata cara, insomma? Beh, no, cara no. Perché poi le persone quando mi conoscono capiscono che sono altro, che sono appunto un'amministratrice del Partito Democratico. Ecco, adesso lei dice che si batte per la cultura a Roma, cioè? Cioè la periferia non ha luoghi dedicati alla cultura. La periferia versa in uno stato di profondo abbandono. Io vengo da una zona in cui ci sono all'interno di un parco archeologico gli sfasciacarrozze. Allora la cultura è anche questo, per esempio, togliere gli sfasciacarrozze da Viale Palmiro Togliatti. Perché... E ritirare alla luce quello che c'è, insomma. Ridare alla luce quello che c'è e renderlo soprattutto fruibile per i cittadini, perché noi abbiamo nelle periferie parchi archeologici, ville d'epoca costantiniana, acquedotti, mausolei, catacombe, insomma, ma anche cittadini. Tutto abbandonato. Alcune cose non sono abbandonate, ma vanno rese fruibili e soprattutto vanno fatte conoscere sia ai romani, che spesso, come dire, ci passano distratti sopra, sia dei turisti. Quindi io direi che sarebbe il caso di riuscire a portare il turismo e decentrarlo in periferia. È una scommessa che si può fare. Ecco, assolutamente fattibile. Senta Di Biase, però la giunta Marino ha ignorato la cultura nelle periferie. Lei sosteneva quella giunta, allora? Sì, allora dove ho potuto e come ho potuto ho operato diversamente, per esempio attraverso la guida archeologica delle periferie urbane, per esempio attraverso la delibera che chiedeva la detassazione di Tasi, Tari ed Imu per i cinema e i teatri, perché un cinema paga di nettezza urbana quanto paga un ristorante. Senta, ma per essere concreti, questo è il suo impegno nelle periferie per portare la cultura, per incentivare la cultura? Il mio impegno è rivolto in primo luogo alle periferie, perché io vengo da lì e dove andiamo non lo sappiamo, ma le radici ce le portiamo tutti ben stampate dentro. Quindi io lei è fiera delle sue radici? Molto, e ne sono orgogliosa. Che cosa le ha insegnato la periferia dove ha vissuto? A tenere i piedi per terra. A tenere i piedi per terra e a darsi piccoli obiettivi, ma raggiungibili. Certo, i cittadini vogliono questo. Senta, la RAI in testa ai sondaggi, cos'ha lei che voi non avete? Lei è incosciente, però non mi pare una caratteristica positiva. Ma c'è qualcosa che le invidia oppure no? l'invidia non è un sentimento che provo io, Minoli. non è un sentimento che mi appartiene. Io penso che la militanza e la fatica siano un valore. Chi non ha militato, chi non conosce le questioni, insomma, è a rischio. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. Gli sms, ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri, grazie. Pietrangelo, cosa ci fai ascoltare oggi? Arriva. Wasn't hard to love you, didn't have to try. Wasn't hard to love you. No, sembro maleducato. Held you for a little while. My own, my own, my. Held you for a little while. My own, my, oh my. E allora, Pietrangelo. E allora oggi accompagnatori alla stazione, tutti malinconici però, le ragazze in partenza, gli uomini sulle banchine ad accompagnarle con lo sguardo, avute tutte per un pochino il tempo di vederle andare via e poi sparire. Ha chiamato Assurancetorix, il bardo del villaggio, ha detto che Obelix è triste assai, ha accompagnato Falbalà alla stazione e ha dimenticato il menhir che voleva darla nello zaino. E Idefix, il cagnolino, piange. Troppo forte. Allora andiamo con la tua bolla, Mario. Vuoi? Vabbè, musica. 1, 2, 3, 4. Facciamo anche noi gli auguri a questo punto al nostro Giovanni. Ma gli auguri si fanno per l'onomastico. Nelle società civili si fa. Hai così. Capito? Basta. Abbiamo questa fatto San Giovanni. Falla sentire ancora un po'. Bello, Stevie Wonder questo, Mica. Va bene. Ci facciamo anche i Rolling Stones? Ok. Allora, She's a Rainbow, lei è un arcobaleno, perché in realtà non è che ci sia da discutere di un arcobaleno, Giovanni. Dobbiamo parlare di che cosa? Di che cosa fa oggi la Camera dei Deputati. Comincia a discutere le linee generali della nuova legge che dovrebbe disciplinare, disciplinerà la natura giuridica dei partiti. Tu sai che c'è un articolo 49 della Costituzione che non è mai stato attuato. I partiti sono, diciamo, enti di fatto ma non riconosciuti. Esatto. E questa è una legge in realtà molto importante perché riguarda la democrazia interna dei partiti. I partiti dovranno avere un atto costitutivo, uno statuto, ci sarà un registro. Ovviamente riguarda anche il, diciamo così, l'accesso ai finanziamenti, l'elezione del leader, le eventuali primarie o meno. Insomma, è un enorme dibattito sulla democrazia. Il problema è che, come al solito, spesso capita in Italia, l'hanno buttata in cacciara. Certo. Che dire, noi abbiamo bisogno tutti di partiti veramente democratici, senza dirlo con retorica eccetera, dove c'è competizione, si direbbe vast program, però in realtà forse c'è tempo per recuperare durante la discussione di questa legge. Lo seguiremo e vediamo cosa succede. Salamino. Se capito cosa non si è capito e si capisce ciò che solitamente non si capisce. Giovanni, quando di solito non si capisce, cosa non si capisce? Cosa non si capisce quando non si capisce, Pietrangelo? Non si capisce un tubo. E per non avere capito un tubo, si è aperta la voragine a Firenze, sicché tante automobili hanno potuto risciacquarsi nell'Arno. Musica! Fiumi di parole tra noi. E il tubo lente di ogni essente, la pietra filosofale di ogni conoscenza, l'aveva intuito Walt Disney quando nei primi albi aveva affidato all'apprendista Topolino il compito di emanciparsi nella conoscenza con un maestro d'eccezione, il venerabile idraulico Tubi. Lo ricordate? Rivelò poi furfante, maldestro, criminale, perfino guantato. Erano dei chiari segni che Walt Disney, da vecchio massone, aveva voluto dare. E comunque, malgrado ciò, maieuta nell'ancor giovine Topolino. Oh, c'è sempre da capire intorno a un tubo. E nella città di Firenze, che tanto significa nei nostri giorni culla generante gigli, la maggior parte dei quali magici, il tubo, Mario, seguimi, il tubo alzo in piedi, è l'ipotiposi del sentimento personale. Che cosa? È l'ipotiposi del sentimento personale, prostergando i prologomeni dei quali nella subcoscienza reintegra il subiettivismo alla genesi delle concomitanze, tutto ciò dove nella rappresentazione dell'autofrasi sintomatica contemporanea della trasmificazione esoplomaniaca. Ora, non avendo capito questo, non avendo capito un tubo, questa cosa facile, se è aperta la voragine sul Lungarno, non l'hanno capito quelli della società Publiacqua, che pure è il pensatoio dei pensatoi della nascente rottamazione del più illustre tra i fiorentini, ovvero Matteo Renzi. La società che gestisce l'acqua pubblica a Firenze ha visto tra i suoi più autorevoli tubisti Erasmo D'Angelis, attualmente direttore dell'unità, ma soprattutto Soave, Solinga, Silente, chi? No. Soave, Solinga, Silente, Maria Elena Boschi. E la domanda, piazza. Giovanni, la domanda sorge spontanea alla Banca Etruria. Come stanno a Tubi? Mario, poi mi dici da chi hai preso quella roba che hai ingerito stamattina. Mario, devi fare un'opera di ricucitura. Perché qua, ma mi sta a rovinare la piazza in una maniera incredibile. Giovanni, io pure l'altro giorno sul foglio l'ho scritto, perché le faccio domande. Tu non ci rispondono. Non risponde qui. Non faccio a faccia. Però voi dovete finire con questa cosa. Cazzoniere! Basta. Poeti dolci fratelli, perché far tanto sussurro, se un lembo di cielo è azzurro, se son biondi dei capelli? Un po' d'azzurro che vale, ed un po' d'oro, un riflesso d'oro, ma il mondo è lo stesso, ma la vita è sempre uguale. Non c'è né duolo né gioia. Non c'è né odio né amore, nulla, non c'è che un colore, il grigio e un tarlo, la noia. Mamma mia, che allegria. 800 24 00 24, 349 238 6666, l'SMS prima di andare in pubblicità. Una cosa da dire ai nostri ascoltatori per aiutarli? Allora, è una M, ma non è lui. Non è il Duce, è la M, ma non è il Duce. Va bene, ok. Riflettete, e intanto andiamo in pubblicità. Mix 24. Obama il 27 maggio sarà il primo presidente statunitense a visitare la città colpita dagli aerei del proprio paese con la bomba atomica il 6 agosto del 1945. Un mondo senza più l'incubo del nucleare, un mondo di pace. Obama a Hiroshima, il primo presidente americano 71 anni dopo quel tragico 6 agosto del 45. una città modernissima, totalmente ricostruita, a pochi monumenti che ricordino la bomba esplosa a 580 metri di altezza nel cielo sopra Hiroshima. La memoria dell'orrore è invece incancellabile per gli uomini e le donne che hanno visto cadere dal cielo un secondo sole. 200.000 morti nelle prime ore, quasi 1 milione quelli che si sono spenti negli anni successivi per le conseguenze delle radiazioni. Hiroshima, l'apocalisse nucleare, il tragico epilogo della Seconda Guerra Mondiale, ma anche l'inizio della Guerra Fredda. Le testimonianze, gli interrogativi, le speranze. Qui a Mix 24, i gialli della storia, dopo il giornale radio. Mario, c'è ancora una bolla? Sì, e stiamo sempre in Giappone, guarda caso. Un bellissimo pezzo, Seven Nation Army, Black Rose. I'm gonna fight them all. Allora Giovanni, stiamo in Giappone perché hai citato ovviamente Hiroshima e cioè, tra l'altro Obama andrà in una visita che è considerata storica e farà probabilmente la più grossa notizia di quello che è il G7 che si apre oggi in Giappone, a Shima, in un'isoletta molto bella. E che cosa c'è in agenda? Beh, come in tutti i vertici internazionali, la crescita, tutti sono d'accordo che va sostenuta, però poi sul come ci si divide. Il Giappone chiede una stagione ulteriore di stimoli fiscali globali e quindi un coordinamento poi delle banche centrali eccetera, la Germania invece no, vuole delle riforme, però la discussione è aperta. Ci sarà probabilmente un documento sull'evasione fiscale dopo i Panama Papers. Secondo autorevoli osservatori dell'area del Pacifico, è la cosa più importante, ci sarà un'attenzione particolare alle tensioni nel Mar della Cina tra Pechino, certo, e i suoi vicini. E per il resto, insomma, direi che è un G7 che potremmo sorvolare. Archiviare. A Tiziana da Brescia per il canzoniere. Tiziana, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Che vale di Marino Moretti. Giusto! Ah, bravissima! Hai visto che non c'è bisogno di autore? No, niente, bravissima. Che fa Brescia di bello? Sono un insegnante in un istituto superiore in Tartaglia. Ah, vabbè, e quindi lavoro questo. Lavoro. Però io insegno diritto in realtà. Ah, diritto, quindi è cultura allora, va bene. Grazie, grazie. E adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Journal of the American Geriatric Society, marzo 2016. È meglio il Tai Chi o l'esercizio tradizionale per prevenire le cadute? Come sapete, il problema delle cadute affligge prevalentemente la persona anziana ed è molto rischioso perché la caduta può portare a serie conseguenze, frattura di femore in primis. Allora, gli autori hanno voluto vedere cosa succede a esporre una popolazione di persone che avevano avuto nei 6 mesi precedenti una caduta importante tale da doverli portare in pronto soccorso a sottoporli a esercizio agli arti inferiori, quindi rafforzando la muscolatura degli arti inferiori, o al Tai Chi, che come sapete è quella disciplina orientale, quando vedete le persone che si muovono lentamente, molto attente all'equilibrio, facendo non solo movimenti che interessano l'equilibrio, ma anche che cerchino anche loro di riposizionare il corpo, dare una postura migliore e anche aumentare la capacità muscolare. Allora, esercizio fisico tradizionale contro Tai Chi. Cosa succede? Si è visto che quelli che facevano 6 mesi di Tai Chi cadevano poi di meno rispetto a quelli che facevano solo l'esercizio di rafforzamento della muscolatura degli arti inferiori. E questo effetto si è mantenuto anche nell'anno successivo. Non solo, ma anche la differenza in cadute rovinose, cioè quelle che ti riportano di nuovo in pronto soccorso, è stato significativo. Beh, signori, se cadete, dedicatevi al Tai Chi. Molto bene, Minori mi ha lasciato il microfono e allora ne approfitto, un momento epico. Ladies and gentlemen, Lady Guerrera. Oggi, caro Mario, una canzone per chi col cuore spezzato guarda gli amici danzare indifferenti. Adriano Celentano e voi ballate. Vi odio tutti quanti, non era come noi, l'abbiamo spaventata e se n'è andata. Piangendo sola sola, lei se n'è andata e voi ballate.